Guardami e parlami, baby. Facciate ridere e cantare. Questo qua, questa città, a cantare con mi fra un culo che va. Hey. Ma se ti guardo negli occhi so che non mi menti. Guardami e parlami. So che adesso resto da solo e non è solo sesso quello che provavo, è soltanto la voglia che cercavo. Parlami di te, papà, parlami di te. Rush. Griff. 2006.